Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non è stata una gran domenica, in tutta sincerità, avvelenata da troppe polemiche, da molti sospetti, e quindi ben arrivato in questo caso più che mai a un martedì internazionale con l'inizio della Coppa Campioni, perché insomma, sapete che a me perlomeno piace chiamarla Champions League in autunno, quando c'è la fase a gironi, ma quando si torna all'eliminazione diretta, questa è la Coppa Campioni, vero Fabio Tavenni? Confermo, buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti, questa è la Coppa dei Campioni, anche se la vera Coppa dei Campioni era quella alla quale partecipavano solo le squadre che avevano vinto, certo, il titolo l'anno prima, però insomma se dobbiamo proprio fare i difficili allora va bene, non facciamolo. Andata e ritorno, eliminazione diretta, chi perde il doppio confronto a casa. Accontentiamoci sì, del fatto che ci siano comunque troppe partecipanti, ma che in ogni caso vengono scremate, se non altro, in autunno. E adesso appunto 180 minuti più recupero, più eventuali supplementari alla partita di ritorno, si va e si torna. Si comincia col botto, perché credo che Milan-Manchester abbia tutte le caratteristiche stasera a San Siro, tutte le premesse per essere davvero un ritorno in grande stile di Coppa Campioni, così come Lione-Real Madrid, anche se fa da sotto clou alla serata, è un altro incontro come si deve. Sappiamo più o meno tutto del Milan, compreso il fatto che è recuperato ufficialmente Thiago Silva e che quindi la difesa può essere quasi quella titolare, eccezione fatta per Bonera a destra. Qualche assenza nel Manchester, sia in difesa che a metà campo, e gli manca anche Giggs di rincalzo. Il Manchester da questo punto di vista non è molto fortunato quando si presenta a Milano rossonere. No, proprio no. Ovviamente tutti hanno ricordato, lo hanno fatto sia in conferenza stampa ieri, i colleghi con Ferguson e Leonardo, che poi tutti i giornali, questa partita perfetta o tempesta perfetta, perché quella sera di tre anni fa, il Milan vinse una partita fantastica sotto un autentico diluvio, certo, e fu forse la recita migliore degli ultimi anni. Fu la partita nella quale il Milan riuscì a esprimere al massimo livello la propria caratura europea. Il Manchester United poi è tornato a Milano contro l'Inter e giocò una partita diametralmente opposta, ma anche perché fu l'Inter a interpretarla in maniera completamente diversa. Chi ricorda il primo tempo di Inter-Manchester United si ricorderà una sola squadra in campo, ed è credo da questa considerazione che Leonardo abbia preparato la partita, cioè l'Inter ebbe un approccio troppo timido nei confronti del Manchester United e riuscì a uscire solo nel secondo tempo, poi passò il Manchester con la gara Old Trafford. Per quanto riguarda il Milan invece fu il Milan a imporre la partita nel 2007, certo è un Milan che aveva 3 anni in meno, è un Milan che aveva Kakà, era un Milan che era proprio veramente al massimo per quanto riguarda il suo rendimento europeo, però la sensazione che sta dando il Milan è di una squadra che si sia preparata, non dico quasi esclusivamente, ma che abbia utilizzato questa fase di campionato per arrivare pronta alla gara contro il Manchester United. Certo. Dall'altra parte abbiamo una squadra che però nell'ultimo mese è completamente cambiata rispetto alla squadra che aveva un po' balbettato, quindi diciamo che la partita si appoggia su un equilibrio quasi totale, al punto che le quotazioni dei bookmakers per vittoria Milan e vittoria Manchester sono praticamente pari, 2.5, il pareggio è quotato 3.2, che è una bella quota secondo me, anche perché, sono abbastanza d'accordo con quello che dice Marcello Lippi, sarebbe un buonissimo risultato per il Milan anche fare 0-0, quello che peraltro fece l'Inter contro il Manchester United, che poi andò a perdere a Old Trafford 2-0, perché la cosa importante per il Milan, a parer mio, è non essere costretti ad andare a Manchester a vincere. Certo. Cioè riuscire a ottenere un risultato che desse la possibilità al ritorno di non essere costretti a vincere, cioè potrebbe bastare un pareggio con gol, credo che sarebbe già comunque un buon risultato. Beh, il fatto comunque che con le premesse che c'erano per esempio in autunno il Milan se la giochi alla pari, insomma, secondo l'opinione pressoché generale, con il Manchester United, e che il fatto che la stessa cosa accadrà, anche se poi avremo tempo di parlarne, grosso modo la settimana prossima tra Inter e Chelsea, significa che un po' le nostre squadre sono salite e un po' forse le altre squadre sono scese. Peccato. Io credo che valga per entrambe, sia Inter che Milan, questo discorso e valga anche per Manchester e Chelsea. Credo che solo il Chelsea sia sullo standard dell'anno scorso, il Manchester ormai l'ho detto alla noia e c'è una legione di radioascoltatori o telespettatori pronti a impallinarmi se il Manchester dovesse fare un figurone contro il Milan, perché io sto dicendo già da un po' di tempo che il Manchester non mi impressiona particolarmente, però sono pronto a essere impallinato nel caso in cui mi prenderò i pallini ed è normale. Nel caso in cui no, ma ce ne prendiamo volentieri anche su quello che stiamo per dire che riguarda la Fiorentina, perché se invece c'è, a differenza di queste due che riguardano Inter e Milan, se c'è una sfida invece in partenza sbilanciata, doppia sfida è quella che parte domani sera da Monaco con Bayern Fiorentina, perché lì rispetto all'autunno per l'appunto è molto ma molto cresciuto il Bayern e molto ma molto calata la Fiorentina. Guarda, dalla fine di novembre il Bayern ha conosciuto solo un risultato, cioè la vittoria, e la Fiorentina invece sta conoscendo soltanto sconfitte, ce ne sono state diverse però, cioè sconfitte costruite e nate in maniera diversa, ce ne sono state alcune nella quale la Fiorentina onestamente non ha meritato di perdere, tipo quella contro la Roma, però la Fiorentina quella partita l'ha persa. Io credo sinceramente che il Bayern di Monaco fosse troppo brutto in ottobre per essere quello vero e che in questo momento magari sta anche girando tutto bene. Bisogna vedere come il Bayern di Monaco affronta la prima gara. Credo che la Fiorentina in questo caso abbia il vantaggio di avere la gara di ritorno in casa, frutto anche dell'eccellente girone di qualificazione. Se questa partita si fosse disputata a novembre nel girone di qualificazione avrei avuto pochi dubbi nel dare favorita alla Fiorentina. Oggi il bilancio e la sensazione è che il Bayern di Monaco possa passare, ma non credo così agevolmente come leggo da tante parti. Insomma, Fiorentina ha questo adesso in campionato, è abbastanza staccata, sì, è vero, dalle prime quattro, quindi deve giocarsela solo lì. È vero, infatti guardarsi dalle squadre che non hanno più ambizioni o interessi di campionato sempre e che possono dedicarsi davvero mentalmente alla Coppa in primavera, che siano ottavi come in questo caso, che siano quarti, poi dalle semifinali in su cambia, perché la caratura cambia. Stavo scorrendo la formazione del Manchester, che prevede, non dico un punto debole, ma insomma un mezzo punto interrogativo in ogni reparto, cioè Evans centrale al fianco di Ferdinand anziché Vidic, Scholes gran giocatore ma insomma certamente in fase declinante al centro della linea di centrocampo tra i due pilastri Fletcher e Carrick, e davanti direi che tra Park e Nani o Nani ai lati di Rooney, beh insomma no, non siamo ai livelli del Manchester dello scorso anno e delle stagioni precedenti. Passiamo Fabio ai sottoclou di oggi e di domani. Stasera Lione Real Madrid e domani Porto Arsenal. Sì, la bella suggestione è il ritorno di Karim Benzema, che però ha un problema all'inguine e quindi con tutta probabilità nella migliore delle ipotesi partirà dalla panchina. Se pensiamo però che anche in una formazione quasi normale il Real Madrid può fare a meno di Benzema, consideriamo la differenza dei valori in campo, almeno a livello teorico, cioè il Real Madrid ha preso il giocatore più importante del Lione l'anno scorso e potrebbe anche non farlo giocare, potrebbe anche scegliere di non farlo giocare. Poi io credo che Benzema in un Real Madrid competitivo debba giocare. In ogni caso è una partita che mette di fronte una squadra come il Real, che ultimamente ha sempre vinto e ha riaperto il campionato anche grazie alla sconfitta del Barcellona. Dall'altra parte c'è un Lione che è quarto in classifica nel campionato francese, un campionato francese finalmente un po' più competitivo dal punto di vista della lotta, ma un campionato francese che il Lione invece qualche anno fa era abituato a dominare. Qui a parer mio siamo in più o meno a livello di equilibrio come la gara tra Bayern di Monaco e Fiorentina, cioè c'è un chiaro favorito, il Real Madrid in questo momento io penso che sia molto molto salita anche nella considerazione di tutti, non solo dei bookmakers ma anche degli osservatori che non hanno interessi economici nelle valutazioni, cioè il Real Madrid di oggi è un cliente pericolosissimo, sì, ma davvero anche, pericoloso anche a livello di vittoria finale. Anche perché Fabio si tende a dimenticare un particolare tutt'altro che secondario, il Real giocherebbe la finale in casa al Bernabeu, questa è una motivazione che per una squadra come il Real credo sia, possa essere decisiva. Vabbè, insomma, Porto Arsenal diciamo che è resistibile come, no? Porto richiamo. Porto Arsenal diciamo che è la quarta delle quattro. Il Porto è una squadra cioè una squadra che dopo la gestione Mourinho non ha più avuto la possibilità di arrivare così in alto, però comunque è un cliente che a questi livelli ci può sempre stare. E soprattutto il problema dell'Arsenal è ancora una volta un problema di peso e di esperienza. Cioè l'Arsenal è una bellissima squadra quando può fare il suo gioco, quando le va tutto bene e quando la palla rimane incollata per terra e l'Arsenal riesce a muoverla molto. Se dall'altra parte ha una squadra pesante o una squadra molto esperta che sporca un po' le traiettorie, che mette un po' di sabbia negli ingranaggi, ecco che questa è una squadra ancora troppo leggera sia dal punto di vista dell'esperienza che dal punto di vista del peso fisico, e può avere dei problemi. E siccome le inglesi quest'anno già ne hanno persa una, io starei attento a dare l'Arsenal come favorito nel doppio confronto. Chiuderei con il capitolo Barcellona, che sarà impegnato la settimana prossima in Coppa Campioni, ma che sta a parte la prima sconfitta stagionale, ma sta letteralmente perdendo i pezzi, e questo mi sembra che sia per il campionato che per la Coppa sia un segnale abbastanza inquietante. No, un segnale preoccupante. Intanto molte squadre stanno perdendo pezzi, perché ad esempio il Chelsea che ha perso Ashley Cole, Barcellona che ha perso Xavi, che ha perso Keita, che ha perso Abidal, che ha un sacco di problemi in difesa, fa notare sul Barcellona soprattutto questa considerazione. Cioè il Barcellona a livello di primi, diciamo 13 giocatori, 14 giocatori, ma credo di esagerare, diciamo 13 giocatori, è una squadra che se può giocare il suo gioco è quasi imbattibile. Cioè è una squadra che ti fa ballare, ti mette lì e fa quello, certo, che vuole. Se ne deve cambiare 3-4, allora può diventare un problema, nel senso che sono tutti grandi strumentisti, anche i rincalzi, però la musica che suonano non è la stessa. Cioè è veramente il paragone con la grande orchestra, credo che sia quello più azzeccato. Cioè il suono è comunque buono, ma non è lo stesso. È davvero difficile per Guardiola riuscire a sprigionare la stessa caratura, la stessa forza e lo stesso equilibrio se deve cambiare più di 3 uomini. In questo momento è costretto a farlo, non a caso a Madrid al Vicente Calderón, che è comunque uno stadio nel quale il Barcellona altre volte ha avuto problemi, ha perso la prima partita della stagione. Insomma, se il Barcellona in questo momento affronta lo Stoccarda è una grande fortuna, perché se il Barcellona avesse preso negli, certo, ottavi una squadra di una caratura superiore, avrebbe potuto, ripeto, con questo Barcellona avere qualche problema. D'accordo, Fabio, a giovedì per un bilancio. Molto bene, a presto a tutti. Torneremo in Europa dopo l'intervallo, parlando della candidatura italiana agli Europei 2016, presentata ieri ufficialmente dalla nostra federazione a Nyon. C'è anche l'Europa League in settimana, il giovedì giocano la Juventus ad Amsterdam sul campo dell'Ajax e la Roma ad Atene con il Panathinaikos. Entrambe le italiane hanno la trasferta iniziale, quindi il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Leggo da un'agenzia che Totti non si è allenato oggi a Trigoria, è a casa con l'influenza e a questo punto ragionevolmente salterà questa trasferta di Coppa di Atene. Ha chiamato Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo farle una domanda sulle squadre impegnate in Champions, che possibilità hanno di passare il turno, e magari, se mi permette, una domandina sull'Inter in particolare, che domenica sera, pur avendo giocato una buona partita contro il Napoli, però ogni tanto mi è parso che alcuni dei giocatori dell'Inter abbiano perso la calma con certi brutti falli, tipo quello su Zuniga di Muntari, tipo quello di Sneijder su Gargano, e l'altro fatto a Quagliarella a gioco fermo dopo che l'arbitro avesse fischiato, non mi ricordo di chi, i giocatori dell'Inter. Diciamo, che possibilità ha l'Inter di affrontare una partita come quella contro il Chelsea, una partita dai nervi molto tesi, diciamo, con questi atteggiamenti dei giocatori? Ecco, se magari in Champions League terminano le partite in 11 con quegli atteggiamenti, ecco, magari considerando il bel gioco che poi esprime l'Inter. Insomma, Rosetti è un arbitro, Rosetti è un arbitro europeo, un arbitro da molto tempo, già designato anche per i mondiali. Domenica sera ha lasciato correre forse un pochino troppo, però gli arbitraggi europei in genere sono discretamente tolleranti sul fatto di lasciar giocare, poi sul fatto di non punire certi pestoni magari in ritardo, tipo quello di Cambiasso domenica sera, può essere un altro paio di maniche, però questo è il dettaglio. Se parliamo lei era partito da un po' tutte le italiane, a me pare che il Milan se la possa giocare tranquillamente al 50%, alla Fiorentina realisticamente più di 20-30 possibilità su 100 è difficile darle sul doppio confronto, non tanto sulla singola partita, e credo che Inter-Chelsea sia di nuovo quasi alla pari del tutto, non credo, quasi alla pari. Mi pare anche che a differenza di, cioè, la Fiorentina sta avendo una crisi per conto suo, il Milan negli ultimi tempi ha avuto la sua flessione, forse perché mentalmente si stava preparando a questo ritorno in Europa. Certamente a questo ritorno in Europa si sta già preparando l'Inter, perché ho avuto l'impressione che sia a Parma che a Napoli, insomma, la concentrazione sulla partita ci fosse, ma insomma, l'idea era che qualcuno la testa un minimo altrove cominciasse ad averla. Scrive Andrea che per il terzo giorno consecutivo a Macerata sulle nostre frequenze si sente, lui scrive un prete di Radio Maria, insomma si sente Radio Maria, e chiede di intervenire, cosa che mi auguro venga fatta a breve. Lino, provincia di Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io un paio di cose volevo dirle per sentire anche un po' il suo parere. La prima è, per quanto riguarda la partita che c'è stata domenica tra Napoli e Inter, le esternazioni di Mourinho, che lamentava il fatto che il presidente De Laurentiis si lamentasse ripetutamente dei torti arbitrali per poi in un certo senso trarne vantaggio. Ecco, Mourinho io non credo che sia pulito sotto questo aspetto, perché lui stesso, a meno che io ho le orecchie che mi fanno sentire cose strane, lui stesso si lamenta spesso dei torti arbitrali subiti dalla sua squadra, quindi voglio dire, mi sembra proprio fuori luogo questa cosa, anche perché ricordo, non so se lei ricorda, il famosissimo gol di Adriano di mano che fece la stagione scorsa. Sì, Dino, io non è la prima volta che lo dico. Io trovo queste discussioni tra, non sue, queste discussioni tra protagonisti, questo rinfacciarsi nel passato, lo trovo di un penoso incredibile proprio. Lo trovo penoso, ma dato che queste cose accadono, purtroppo poi c'è il diritto dovere, diciamo, di registrarle, di commentarle, di cose. Il lunedì, però, cioè, secondo me hanno queste cose insopportabili ormai, dei Mourinho, dei De Laurentiis, dei Preziosi, di cose, possono avere anche diritto di cittadinanza il lunedì, però hanno il bollino di scadenza, per il mio, cioè son come lo yogurt, alle 24 del lunedì sera scadono, no? E dall'indomani, cioè da oggi nella fattispecie, diventano, se prima erano soltanto fastidiose, adesso diventano veramente insopportabili, per cui insomma inviterei anche lei a lasciarli nel loro brodo, no? A lasciarli sguazzare come piace a loro. Salvatore da Como, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Sono d'accordo con le ultime sue affermazioni. In Italia è una questione culturale completamente, noi siamo unici al mondo nel bene e nel male, no? E quindi in altre nazioni non esistono quasi i giornali sportivi, invece in Italia c'è gente che ci campa su queste cose. Comunque volevo parlare degli arbitri. Mi scusi, dato che io l'ho fatto da giovane l'arbitro, e lo dico già da tempo, l'ho detto forse anche qualche altra volta in trasmissione, finché esiste la buona fede e la discrezionalità nelle sanzioni che l'arbitro deve prendere in ogni momento della gara, non si potrà mai risolvere il problema, perché dietro la discrezionalità e dietro la buona fede si nasconde potenzialmente il fare apposta una cosa invece di un'altra. E questo lo voglio dire perché, voglio dire, da 50 anni che si verifica, se non cambia questa normativa è impossibile che l'arbitro possa, diciamo, se decidiamo che è sempre fuori gioco, non c'è passivo, non c'è attivo, se decidiamo che la mano è sempre fallo e non è invece volontario o involontario, cioè se non eliminiamo questo tipo di atteggiamento, questo tipo di mentalità, non possiamo risolvere a monte il problema. Un'altra cosa sotto il un minuto ancora. No, non c'era Salvatore, mi scusi. Se un minuto no, se lo dice in 3 secondi, sì. Un secondo. Volevo dire a proposito delle espulsioni, no? Cosa ne pensa lei di un'espulsione fatta al 90esimo, un giocatore che prende una giornata di squalifica, e lo stesso per lo stesso fallo, uno che prende l'espulsione al 5° del primo tempo, ne fa 2 di giornata invece di una. Se è per lo stesso fallo, in effetti non sono granché d'accordo, però bisogna sempre vedere se è per lo stesso fallo, se è per lo stesso tipo, se c'è la stessa violenza, se c'è, insomma, lei dice azzerare i parametri, in poche parole, uniformare i parametri in assoluto, non è semplicissimo nel calcio, io credo, anche se è una buona idea, non è di così facile attuazione. che ha presentato ieri a Nyon la candidatura ufficiale agli europei del 2016. Ne parliamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buon pomeriggio. E questa è una presenza consueta, e con invece una presenza gradevolmente rara, che è quella del direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Antonello Valentini. Buongiorno Antonello. Ciao, buongiorno. Antonello, non si può dire che non abbiate il gusto della sfida. Faccio solo questo rapidissimo riassunto. Fabio Monti del Corriere della Sera. Ma l'Italia non poteva sottrarsi a questa sfida, non tanto per i problemi della Federcalcio, ma per quella degli stadi italiani, che noi vogliamo con questa occasione, a prescindere dall'assegnazione o meno degli europei, per la quale peraltro ci batteremo naturalmente, ma vogliamo cogliere questa occasione per mettere mano una volta per tutte all'ammodernamento degli stadi, renderli più accoglienti, più ospitali e quindi anche più sicuri, e le cronache di questi giorni sollecitano un intervento a maggior ragione. Da questo punto di vista non c'è alcun dubbio. Facciamo così, io faccio, Marco Bellinazzo fa l'esperto e dialogate voi, io faccio l'avvocato del diavolo. Allora, Ti riesce benissimo. Che mi riesce abbastanza bene. No, ascolta Antonio, io faccio prima un quadro generale e poi lascio parlare voi, che è questo. Le cronache di questi giorni, ma le cronache dei quotidiani, no? di questi giorni, senza bisogno di scegliere l'uno anziché l'altro, secondo me ci stanno dicendo una cosa, che noi nel 90 avevamo scoperto dopo due o tre anni che la corruzione prima di Italia 90 in Italia, nel paese, era al massimo. Ora, in questi giorni stiamo scoprendo, prima e non dopo, invece, che il tessuto, il tessuto entro cui tutto si svolge, è tornato a quei livelli. Ora, non è una responsabilità molto grave, molto grave nel senso di molto seria, intendiamoci, quella che ci si assume oggi cercando di trainare il movimento di un evento così grande? Ci metterei dentro anche i mondiali di nuoto dello scorso anno a Roma, con quello, con qualcosa o più di qualcosa che è già emerso? Dici a me? Sì, dico. Io i mondiali di nuoto ovviamente non parlo, mi occupo delle cose mie, sì. Quelle del calcio, e noi voglio sottolineare un dato molto confortante e incoraggiante, che va contro tutti i luoghi comuni dell'Italia di oggi, e cioè che dalle amministrazioni comunali di 12 città italiane abbiamo avuto un'adesione convinta e totale, tant'è che nel dossier che abbiamo presentato ieri, così come era richiesto, ci sono le decisioni, le delibere non solo delle giunte comunali ma anche dei consigli comunali di queste 12 città per ristrutturare gli stadi delle rispettive zone di influenza. Quindi da questo punto di vista l'idea di una richiesta di denaro pubblico così a pioggia non c'è, questa va assolutamente smentita e scartata. Noi abbiamo previsto in un dossier che è assolutamente credibile uno stanziamento di circa 745 milioni di euro, ma un impiego di 745 milioni di euro da parte delle amministrazioni locali per ristrutturare 12 stadi. Tre di questi sono stadi da rifare, e cioè Torino, dove la Juventus è in prima persona impegnata, certo, con l'aiuto del credito sportivo, Palermo e Cagliari. Per gli altri i nove stadi ci sono i progetti sostenuti, ripeto, dalle giunte e dalle amministrazioni comunali. L'impegno dei comuni effettivamente c'è, così come c'è l'impegno del governo, che ha firmato appunto dei memorandum, no, che sostengono questa candidatura. L'asse portante di questa candidatura però doveva essere la legge sugli stadi, che il sottosegretario allo sport Rocco Crimi ha sostenuto, che è stata approvata al Senato in autunno con un voto bipartisan, però si è incagliata alla Camera con reazioni e perplessità altrettanto bipartisan, e si è scoperto, per tornare al discorso di prima, che proprio in quella legge, per l'eccessiva semplificazione che prevedeva nei processi di autorizzazione delle nuove costruzioni, si prestava a possibili speculazioni, e questa legge quindi è rimasta al palo. Ora ho visto che il sottosegretario Crimi ribadisce la necessità di questo provvedimento e si dice fiducioso sulla sua approvazione. Io tanto fiducioso non sarei, così come non sarei fiducioso nell'ottica di una candidatura italiana che vede almeno così così si legge la, la Francia in, in, in pole position. Chiaramente questa è l'ultima spiaggia per a mio avviso per ottenere stadi, nuovi stadi, stadi moderni. I soldi i comuni non li hanno, i soldi i privati, se non hanno stadi che possono gestire direttamente o stadi di proprietà, difficilmente li tireranno fuori. Ci auguriamo tutti, ovviamente sosteniamo tutti questa candidatura, perché ripeto, credo che sia l'ultima occasione per avere un calcio moderno in Italia, almeno al, al pari di altri paesi europei. Che dice Antonello? Se posso aggiungere una cosa, certo, anche devi. Stamattina, dove c'è stata una riunione tra i rappresentanti politici dei vari schieramenti, proprio per trovare una via d'uscita condivisa per il disegno di legge, il sottosegretario Crimi, come sapete, si è sobbarcato una trasbogata oceanica, transoceanica, per arrivare da Vancouver ieri a Nyon, e di questo siamo grati a lui e al governo per le garanzie che ha firmato. Io sono abbastanza fiducioso invece su approvazione in tempi ragionevoli, cioè entro il mese di aprile, in tempo utile anche per l'assegnazione degli europei. Ma voglio dire una cosa, che noi tra le scelte che abbiamo fatto di candidarci e quindi di presentare i dossier, c'è stata anche questa riflessione ad alta voce che abbiamo detto chiaramente, che comunque staccare la spina, non candidarci e non presentarci poteva sembrare anche una, un atto di sfiducia nei confronti della legge e comunque un depotenziamento dell'iniziativa parlamentare. Invece su questo noi siamo abbastanza convinti, abbiamo delle notizie piuttosto confortanti, che superate giustamente le obiezioni che ho sentito prima sui problemi di speculazione più o meno edilizia, le cose possano invece mettersi nella, nella giusta direzione. Antonello, hai ricordato la trasvolata transoceanica del sottosegretario, cioè del rappresentante del governo. Da Milano la Lega ci avrebbe messo meno a venire a Nyon, e invece mi pare che non ci fosse. Guarda, io non devo fare il difensore di nessuno, ma devo dirti la verità, noi non abbiamo chiesto al presidente Beretta di venire, perché ritenevamo che fosse una delegazione, la nostra, molto snella, e della federazione, quindi la Lega di Milano e Beretta non c'entrano assolutamente nulla. Ho letto oggi qualche pizzicata sui giornali, ma è del tutto ingiustificata e immeritata da parte di Maurizio Beretta. Senti, allora te la mollo un'altra piccolina io, sempre lo stesso genere. È vero che state pensando come testimonial di questa avventura mondiale a Fabio Capello? Guarda, Fabio Capello è venuto, invitato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e dall'Ussi, che tu conosci bene, l'Unione della Stampa Sportiva, a Coverciano a novembre, a fare da relatore al seminario che ogni anno la Federazione e l'Ussi organizzano. Quindi se avessimo avuto qualche problema con Capello, che non abbiamo assolutamente, avremmo evitato un ospite così, diciamo, scomodo. La sua è un'intelligenza scomoda, non ci sono dubbi. Capello dice anche tante cose giuste. Magari qualcuno ha notato, come ha fatto Abete dei giorni scorsi, che c'è chi dall'estero, altri allenatori importanti all'Italia, guardano sempre con un minimo di affetto e di sentimento in più. Però le cronache di questi giorni certamente richiamano le ragioni di Capello, e certamente le nostre preoccupazioni sono aumentate, tant'è che anche ieri, come avrete letto, il Viminale ha convocato una riunione d'urgenza, certo, presieduta niente di meno che dal capo della polizia, proprio per cercare di attutire e di porre riparo a questi ultimi episodi. Volevo invece chiederle questo: tre anni fa, insomma, nel 2000, anzi quattro anni fa, quasi, insomma, quando comunque si è presentata la candidatura per gli europei 2012, che dovevano rappresentare, anche in quel caso si era detto una svolta, c'era un altro governo in quel momento, forse il clima non era molto propizio, nel senso che in Europa si voleva in qualche modo aprire il calcio all'Europa dell'Est, no? in conformità anche a quello che era il processo di allargamento dell'Unione, da qui le modifiche per esempio alle norme sulla Champions League che oggi permettono alle squadre dell'Est di partecipare ai gironi, insomma, e l'assegnazione finale, la beffa di Cardiff come è stata chiamata, a Polonia e Ucraina. Ho letto, insomma, che avete chiesto maggiore trasparenza sulla valutazione di questi dossier, ma appunto non vi fidate della Francia, di questo profilo basso, insomma, no, che stanno tenendo i francesi. Noi dovremmo scambiarci i dossier con la Francia e con la Turchia, in modo da giocare a carte scoperte e che i dossier vengano fuori alla luce del sole, ci si renda conto della consistenza, perché una cosa sono i progetti, una cosa sono le promesse, una cosa sono gli impegni, e vedere serenamente dove andiamo a parare, come si dice. Fermo restando che la Francia certamente ha alle spalle anche la Francia ha alle spalle l'appoggio del governo, anche la Turchia ha alle spalle l'appoggio del governo, però noi vorremmo giocare a carte scoperte. Insieme ai turchi, che sono d'accordo con noi, chiederemo che le tre federazioni che hanno presentato la candidatura si scambino reciprocamente i dossier, in modo da giocare a carte scoperte. A carte scoperte. Beh, indubbiamente un punto a favore è lo slogan, che come scrive, come tutti hanno notato stamattina, ti sentirai a casa, è uno slogan indubbiamente azzeccato e felice. Poi quella linguaccia di Beccantini ha provato a dire, ha aggiunto subito, se non a casa nei casini, ma insomma, questo lo devi consentire, no Antonello? Noi ci siamo fatti tutti una risata, anche perché devo dirti che noi abbiamo contrattualizzato 60.000 camere d'albergo, nel dossier sono contrattualizzate 60.000 camere d'albergo, abbiamo ottenuto una risposta molto positiva dal nostro sistema imprenditoriale, dal nostro sistema di trasporti, quindi da questo punto di vista credo che l'Italia poi qualche volta debba anche finirla di darsi gli schiaffi in faccia da sole, insomma. Torniamo in compagnia di Antonello Valentini, direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, e di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Qualche minuto ci rimane per affrontare il caso Buffon. Antonello, io ero tra i più scettici, e lo sono tuttora, rispetto al provvedimento preso dal Consiglio federale su imbeccata del presidente del CONI, senza entrare troppo nel merito della cosa, ma soltanto per una questione di priorità. Devo dire una cosa, per gli scettici come me, voi siete stati bravissimi, perché avete convinto, secondo me, domenica Buffon a fare un promo. Che dici? Questa è buona. Beh, sì, si è prestato magnificamente Gigi, voglio dire. Io avrei preferito, ti dico la verità, io conosco Gigi da tanti anni, un ragazzo straordinario, e oggi, come hai visto sui giornali, dopo la battuta con la quale si è cavata nell'immediato dopo partita, oggi ha un po' rivisto la sua posizione. Avrei preferito che avesse chiesto subito scusa dicendo ho sbagliato, me ne dispiace, ma ci sta pure la battuta. Io voglio spiegare con molta semplicità e sinteticamente una cosa. Qui non c'è nessuna battaglia etica, non c'è nessun problema se si è credenti o non credenti, qui c'è un problema di educazione e di rispetto di certe regole di comportamento. Io che giro, perché ho due figli che giocano a pallone a livelli bassi naturalmente, ma che giro nei campi di periferia, vi assicuro che ascoltare, dove ci sono 30-40 spettatori in questi campi sportivi e non le folle degli stadi che coprono, certo, ti assicuro che sentire partire una bestemmia è una cosa sgradevolissima. Quante volte ci siamo trovati a dire che il calcio, lo sport in generale, ma il calcio per la sua popolarità, i campioni che sono gli idoli di tanti ragazzi, devono dare il buon esempio. Noi ne facciamo soltanto una questione di educazione e di regole di comportamento. Tutto qui, nessuno vuol fare né moralista, né dare lezioni di etica, né porre un problema religioso. Detto questo, è credo, insomma, anche con Gigi possiamo condividere questa linea, certo. Chiaramente, però questa iniziativa ci è sembrata nascere male e finire pure peggio per come è stata gestita. È nata male perché di fronte a 900 DASPO inflitti dall'inizio dell'anno, accoltellamenti davanti agli stadi, assalti ai campi di allenamento, dichiarare guerra alle bestemmie è sembrato perlomeno fuori tempo. In ogni caso, se si è voluto assumere questa iniziativa, non si capisce perché di fronte a un caso eclatante come quello di Buffon, e qui non ce l'abbiamo con Buffon, che è stato solo, diciamo così, l'esecutore materiale del gesto o della parolaccia, per così dire, è chiaro che di fronte a una presa di posizione chiara, a un giro di vite annunciato alla stampa, alla TV e alle radio, di fronte appunto ad un illecito disciplinare così eclatante, ci si sarebbe aspettati una punizione del giocatore. Si è detto invece che per par condicio, per la questione della prova televisiva, ma non c'era certo bisogno di aspettare le 16 del lunedì per acquisire la prova della bestemmia pronunciata dal giocatore, queste regole entreranno in vigore a fine febbraio. viceversa, per esempio, sui campi del campionato dilettante nel Trevigiano abbiamo letto che due giocatori sono stati espulsi per bestemmia, se l'ANSA ha riportato correttamente la notizia, e non abbiamo motivo per credere il contrario. Quindi, insomma, il maggior rigore annunciato poi è finito quasi, insomma, in una sorta di vogliamoci bene, insomma, perdoniamo Buffon. Forse, ecco, il rigore annunciato doveva essere anche applicato per dare quell'esempio a cui lei faceva riferimento. Immediatamente, dici tu, Antonello. No, io voglio ripetere quello che molto serenamente abbiamo cercato di dire in questi giorni, e cioè che noi abbiamo due partite di campionato rinviate prima di Natale, che sono Fiorentina, Milan e Udinese Cagliari, e non possiamo cambiare le regole in corsa per due partite che appartengono a un turno di campionato di dicembre, del dicembre scorso. Allora abbiamo detto che subito dopo queste due partite che si giocano il 24 febbraio scatterà la normativa, che peraltro non abbiamo ancora pubblicato ma è in gestazione. Certo. Però detto questo, voglio dire che noi l'auspicio forte, al di là delle norme, delle NOIF, le benedette norme organizzative interne della federazione, questa bruttissima parola NOIF, al di là di questo, voglio dire, l'auspicio forte è che questa iniziativa serva da deterrente per tutti, che abbia una forza deterrente enorme su tutti i campi, grandi e piccoli, a cominciare dai grandi, dove i più noti, i più famosi, i più ricchi, i più amati e i più seguiti diano un esempio. Tutto qui. Sì, io ho trovato molto spiritoso, ti leggo molto brevemente, Matteo Servente è un ascoltatore che scrive ogni tanto da Memphis, perché lui lavora negli Stati Uniti, ascolta questo programma in podcast, eccetera, e aveva scritto: capisco quando si concedono tempi tecnici di attuazione per installare tornelli o per mettere a norma impianti, ma in questo caso cosa si voleva? Concedere ai blasfemi il tempo di andare a un corso di catechismo? Sinceramente non l'ho trovata malissimo. Ci resta un minuto e mezzo, l'ultima domanda. Prima di chiudere era questa: c'è una battaglia che personalmente per quel niente che può contare mi vedrà certamente al fianco della federazione, non a quello della Lega, che mi pare si vada profilando, che è quella della, non dico la proprietà degli arbitri, ma diciamo la riconducibilità della classe arbitrale alla Lega anziché alla federazione. Vedi anche tu sullo sfondo una minaccia seria di appropriazione della Lega, oppure tu pensi che si risolverà pacificamente? Ma no, da noi c'è un dibattito molto aperto, io penso che si risolverà assolutamente in maniera pacifica. Quello che c'è da chiarire a chi non lo ricorda è che gli arbitri non ripagano le società. Gli arbitri sono a contratto, quelli di Serie A, con la federazione. L'AIA, in base allo statuto approvato con 98 o quasi il 99% dei voti anche dalle società della Lega Nazionale Professionisti A e B, ha reso l'AIA più autonoma, giustamente più autonoma, e quindi questo pericolo io francamente non lo vedo. Poi nel dibattito che ci può essere tra la scissione tra la Lega A e la Lega B, che si possa creare un gruppo di arbitri dedicato alle partite di Serie A, un gruppo di arbitri dedicato alla Serie B, questo è materia di discussione e di confronto, ma gli arbitri rimangono come primo riferimento, continueranno ad avere la federazione. Antonello, io credo che, cioè, vedo davanti a me Marco Bellinazzo, che avrebbe ancora alcune curiosità da togliersi, e potremmo anche, come dire, rifissarci un appuntamento, io credo, no? Per piacere, ripeto, senza nessuna spocchia e senza nessuna voglia di imporre il nostro punto di vista, soltanto di discutere, di confrontarci. Ma certo. Facciamo anche noi tanti errori, ci mancherebbe altro, però insomma confrontarsi, spiegare le proprie ragioni può aiutare sia noi che voi, insomma. Alla prossima occasione, Antonello. Grazie davvero. Ciao, davvero a te. Grazie a te. Grazie a Marco Bellinazzo, grazie evidentemente per la sua partecipazione. Abbiamo giusto il tempo di ascoltare che data, che cosa ha tirato fuori oggi Nicola Filippone dal 16 di febbraio. Sembra ieri. 16 febbraio 1936. A Campo Testaccio la Roma imprime una svolta a un campionato fino a quel momento deludente, sconfiggendo la Lazio per 1-0. Merito di un gol realizzato di testa dall'ala sinistra Renato Cattaneo, già autore della rete decisiva all'andata, che si era conclusa con lo stesso punteggio. L'euforia post-derby dà ai giallorossi, capitanati da Fulvio Bernardini, la spinta per un finale di campionato a ritmo scudetto. Arriveranno secondi a un solo punto dalla capolista Bologna. Grazie allora a Marco Berinazzo, grazie ad Antonello Valentini, a Fabio Cantadori in regia. In redazione c'erano Flavio Suardi e Franco Piantanida. Buon pomeriggio a tutti.